rispetto, è un'associazione di promozione sociale, Alchemy che si chiama l'associazione, mentre la 53 sta per laboratorio antiproibizionista a Bologna, che viene dall'esperienza del livello 57, che era un centro sociale autogestito, nel 96 è nato il laboratorio, mm-hmm. e poi è stato terminato da quel grande libertario di Cofferati nel 2006, mm-hmm. e poi abbiamo proseguito le attività a XM24 e tuttora, diciamo, è un progetto che è sia istituzionale perché è stato finanziato per pochissimi anni, tra il 98 e il 2003, dall'ASL e anche da quella legge 45, la legge regionale, e da fondi regionali e ASL, e poi invece no, non c'è stato più un finanziamento per motivi evidentemente prettamente politici, sì. Perché la maggior parte delle, non la maggior parte, praticamente tutte le cooperative, i progetti che fanno riduzione al danno e riduzione ai rischi sul territorio dell'area metropolitana di Bologna sono passate da una formazione. E la riduzione del danno che cos'è? La riduzione del danno è nata negli anni 90 per fronteggiare l'epidemia di HIV, mm-hmm. e soprattutto quindi per evitare di diffondere le malattie sessualmente trasmissibili incrociandosi con il diffondersi dell'overdose dell'eroina, quindi consumi iniettivi, usi iniettivi, overdose, quindi distribuire preservativi e dopo siringhe pulite ha fatto mm-hmm. in modo di salvare decine di migliaia di persone da malattie e da sessualmente trasmissibili e anche da tante altre malattie molto invalidanti, endocarditi, eccetera. Questa cosa fa in modo di... Non è molecola centrica la nostra visione riguardo alle sostanze, altrimenti non si spiega come mai se qualcuno, poverino, si rompe un femore e un'anca, va in ospedale, si fa delle... viene messo a morfina per quelle 2 settimane, quando esce dovrebbe andare in Piazza Vieta a cercare, certo. di vendere la roba, no? Certo, certo. E invece non fa così praticamente nessuno, come mai? Forse perché non è la droga, lo spettro è il problema, ma invece è la marginalità, il pregiudizio, le discriminazioni, eccetera. Tutto quello che viene alimentato dal proibizionismo e dal potere. Noi infatti mm-hmm. usiamo un'altra definizione, intanto usiamo le definizioni un po' diverse, diciamo che per noi droghe le usiamo un po' all'inglese, drugs, che significa sia droghe illegali sia farmaci, okay. che per noi sono la stessa cosa, per noi sono uguali perché sono sempre molecole, diciamo, certo. possono essere usate in un modo o nell'altro, un po' come, appunto, come la morfina che è usata in tutte, anche sui bimbi, sulle partorienti, quindi diciamo sì, non dà problemi, evidentemente non è tossica, eppure se c'è uno stigma enorme quello sull'eroina, che invece in realtà il problema è la purezza della sostanza e anche l'uso iniettivo che comporta tanti problemi di malattie che si possono trasmettere, anche di infezioni chiaramente. No? Certo. Non solo abbiamo questa definizione di droghe più ampia, sempre al plurale, la droga singolare è solo una costruzione pregiudiziale, ma mm-hmm. anche la riduzione del danno per noi è limitante, non ci va bene come definizione. Facciamo un po' alla francese, la riduzione dei rischi per noi ha un senso, perché se parliamo di danni vuol dire che c'è già stato qualcosa che è andato a finire storto. Le persone usano le sostanze non per farsi dei danni, non per uccidersi, non per sfasciarsi e neppure per andare in overdose. La maggior parte delle persone che usano sostanze lo fanno per stare meglio, un po' come quelli che vanno in farmacia, lo fanno per curarsi, non lo fanno per sballarsi. Certo. Però le sostanze, però, ancora di più, c'è di mezzo il piacere. Quindi se si riducono i rischi adeguatamente nel modo autoregolandosi, non è assolutamente detto che ci siano dei danni. Se si beve una birretta la sera o quando non si deve guidare, dove sono i danni? Se si beve troppo ci sono, possono essere danni, ma altrimenti non ci sono. È uguale per tutte le altre sostanze, tenendo presente che l'alcol è la seconda sostanza che fa più danni, più morti in assoluto dopo un'altra sostanza legale che è il tabacco. Tutte quelle illegali vanno a una distanza siderale. La caccia al drogato, alla drogata, è sempre riguardo quelli illegali, no? Però per noi non è così. Per cui per noi preferiamo riduzione dei rischi, perché non è pregiudiziale, non è giudicante ed è un qualcosa che stimola a fare meglio a livello di autoregolazione. Per autoregolarsi bisogna sapere le cose, bisogna sapere le informazioni giuste, sapere le sostanze, sapere i mix e avere un po' di informazioni che altrimenti non permettono di. Un po' come andare in farmacia e prendere bendati un farmaco a caso e calarselo giù sperando che ti faccia bene. Certo, Quasi mai certo. va a finire bene un gioco del genere. Ecco, il proibizionismo è una storia del genere, diciamo. Quindi.